America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Los Angeles, Mario Platero. It's an absolute incredible time to be with Apple. And I'm loving every minute of it, and I think everybody in Apple's loving every minute of it too. Tim Cook, amministratore delegato di Apple Computer, il manager più pagato del mondo, pensate, $600 milioni in stock option l'anno scorso, il manager che ha anche raccolto una delle sfide più difficili che si possano raccogliere, quella di prendere le redini dal suo ex capo Steve Jobs, una leggenda vivente, un idolo mondiale, visionario e geniale. Dunque, diciamo subito che secondo me è profondamente ingiusto fare un confronto. Credo che Jobs sapesse che chiunque l'avesse sostituito alla guida dell'Apple Computer avrebbe avuto un compito ingrato dal punto di vista dell'immagine, e dunque ha scelto Cook non solo perché era in controllo delle attività operative, perché era sicuramente l'uomo migliore per prendere il suo posto, conosceva l'azienda a fondo, ma anche perché era il suo opposto caratterialmente. Jobs, che ho incontrato proprio qui in questo convegno nel 2007, era un uomo straordinario, era un visionario energico, impulsivo, geniale, contagioso. Cook invece è misurato, prudente, strategico, cerebrale e, diciamolo, insomma, meno contagioso di quello che poteva essere Steve Jobs. Qualcuno ieri ha detto anche noioso, ma mi sembra troppo, mi sembra ingiusto, perché in realtà Cook proprio ieri ha compiuto qualcosa di importante. Si è esposto lui in prima persona, perché è stato ieri notte che si è poi consumato il vero passaggio del potere, il vero cambio della guardia, e Cook ha preso le redini in mano, ha detto che ci saranno nuovi prodotti, sono i suoi prodotti, sono dei prodotti di cui non ci ha detto nulla, perché dice che ha triplicato la riservatezza, la segretezza sui nuovi prodotti, ossessionato dalla segretezza, perché vive molto male, e questo è emerso nella chiacchierata ieri sera, il confronto con la Samsung, concorrente diretto che sta conquistando quote importanti di mercato. E ha anche ricordato due momenti chiave del suo passaggio all'Apple. Il primo, quando Jobs cercò di assumerlo, lui dice: ma io non avevo nessuna voglia di andare a lavorare all'Apple, poi in 5 minuti ho capito che quello sarebbe stato il mio destino, è stato appunto contagiato. E il secondo momento, appunto, quando gli ha comunicato che sarebbe stato il prossimo amministratore delegato. La devozione per il suo ex capo è totale, ma la definizione del suo nuovo territorio è chiara, e credo proprio, come gli aveva detto Jobs poco prima di morire, be your own man, sii te stesso. Ebbene, ieri sera Cook lo è stato. Vi parlerò della California per qualche giorno, vi parlerò molto di tecnologia, ma la tecnologia, come avete sentito bene, si mischia perfettamente con la musica, musica soul. Questo che vi ho fatto ascoltare, che vi faccio ascoltare, è un piccolo stralcio di un concerto che abbiamo avuto ieri qui a Los Angeles. E poi vi proporrò anche un tuffo nel passato, riproponendovi un dialogo fra Jobs e Gates che vidi proprio qui a Los Angeles qualche anno fa, e qualche altro episodio che ho raccolto in questo convegno. Well, you know, Bill built the first software company in the industry, and I think he built the first software company before anybody really in our industry knew what a software company was. What Steve's done is quite phenomenal. You know, if you look back to 1977, that Apple II computer, the idea that it would be a mass market machine, Apple pursued that dream. In passato ho visto questo incontro storico fra Steve Jobs e Bill Gates, il 30 maggio del 2007, sempre alla All Things Digital. È stato un incontro di una certa densità emotiva, ripreso poi più volte quando purtroppo Steve Jobs ci ha lasciato. È stato durante quell'incontro che Steve Jobs ha parlato della canzone dei Beatles che ha voluto dedicare a Bill Gates. You and me, Sunday driving. Of Us, Glass, dunque, questa fu la canzone che Steve Jobs dedicò a Bill Gates. Ecco, vorrei aprire una lunga parentesi questa settimana sull'economia digitale. Ecco, vi voglio dare alcuni elementi di fondo, poi nei prossimi giorni entreremo più nel dettaglio. Per esempio, la gran maggioranza di un gruppo di persone intervistate da uno studio della Oxford Economics ritiene che i social media ormai appartengono, non voglio dire al passato perché sono in straordinaria crescita, pensate che Twitter cresce dell'80% all'anno, ma i social media hanno fatto quello che dovevano fare. Parlando di Twitter, voglio ricordare che abbiamo fatto in passato un esperimento per vedere che tipo di travaso abbiamo dall'ascolto radio a Twitter. Il mio Twitter è @MarioPlatero, vi incoraggio a mandarmi dei commenti, delle domande, delle raccomandazioni su quello che diciamo in questa trasmissione a proposito dell'economia digitale. Lo faremo nei prossimi giorni, le vostre domande mi serviranno da stimolo per poter chiedere qui ai protagonisti dell'economia digitale alcune risposte a quelle che sono le vostre domande. Hi, this is Walt Mossberg, personal technology columnist for the Wall Street Journal. Walt Mossberg è con Kara Swisher l'organizzatore di questo convegno, un convegno organizzato dal punto di vista aziendale dal Wall Street Journal, dal gruppo Dow Jones. Walt lavora da sempre con il Wall Street Journal, abbiamo lavorato insieme parecchi anni, quando era corrispondente dalla Casa Bianca, poi è stato corrispondente dal Dipartimento di Stato, è stato capo dell'ufficio di Washington del Wall Street Journal. Voglio raccontarvi la storia di Walt perché è molto particolare e molto americana. Dunque, Walt, come vi dicevo, seguiva la politica, a un certo punto ha avuto un infarto e questo infarto gli ha impedito di continuare a viaggiare, a muoversi con gli stessi ritmi che seguiva quando doveva andare in giro per il mondo con il presidente americano, con il segretario di Stato di allora che era Jim Baker. I dottori gli dissero di smettere. E che cosa fece Walt Mossberg? Scelse di occuparsi, disse, della cosa che conosceva meno, e cioè della tecnologia e dell'economia digitale. E da lì nacque una column che si chiama Personal Technology, tuttora una delle più seguite in America, una column in cui lui in modo molto umile, modesto, semplice diceva: ma io non so nulla di gadget elettronici e dunque sono come un consumatore che si avvicina a questo gadget, cerca di capirlo e spiegherò come funziona. Insomma, è diventato un guru del consumo elettronico e grazie a questa sua presa sul pubblico americano è riuscito a creare questo convegno che è diventato sicuramente uno dei più importanti al mondo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa del Pacifico che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Quella di oggi voglio dedicarla alle spiagge. Per la prima volta una spiaggia californiana, secondo una classifica che un professore della Florida fa ogni anno negli ultimi 20 anni, è stata nominata la spiaggia più bella degli Stati Uniti e dunque il premio 2012 è andato a Coronado, che è sulla penisola della Baia di San Diego, una spiaggia lunga 3 chilometri, una spiaggia di sogno poco lontana da qua. E dunque, in onore delle spiagge californiane, del surfing, dei Beach Boys, Surfing USA. Da Los Angeles è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.